Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buon sabato, gentili ascoltatori, ben trovati alla puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. Puntata speciale sì, ma la squadra è sempre la stessa: Mirel Lucchetti, Massimo Brugnoni in redazione e Roberto Scaltriti alla parte tecnica. Anche quest'oggi potete commentare la puntata via mail, nessunluogo@radio24.it, su Facebook nessunluogolontano-24 oppure su Twitter nessunluogo24. E allora oggi ricapitoliamo un po' quello che è stato l'attualità internazionale di questa settimana e riascoltiamo il meglio e partiamo da questa notizia, queste indiscrezioni che si sono inseguite durante tutta la settimana. Martedì i primi quotidiani italiani hanno riportato la possibilità di un attacco di Israele all'Iran e noi ne abbiamo parlato con Andrea Nativi, esperto di strategia militare. And a new report on Iran's nuclear program. Ray Suarez has our story. A military strike on Iran could be imminent and could take place in the coming months. Tel Aviv has long threatened to attack, saying international sanctions against the country over its nuclear. Oggi Corriere della Sera dedica ampio spazio a questa possibilità di questo attacco, con anche una serie di schemi che, insomma, che mostrano tre opzioni diverse: attacco aereo, naturalmente stiamo parlando di questo. Cerchiamo di capirne meglio quanto sia veramente verosimile, quanto sia all'orizzonte, e quindi lo facciamo con Andrea Nativi, direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, eccoci. Allora, questo risico iraniano, mi si perdoni appunto la semifacezia, ci risiamo, anche l'anno scorso fra l'altro eravamo proprio in onda ad agosto, lo stretto di Hormuz si era fatto molto caldo, in quell'occasione Andrea ci eravamo sentiti proprio per capire se erano prove di guerra o se veramente eravamo alla resa dei conti. Ci siamo o è la solita politica dell'annuncio? Io direi che siamo alla solita politica dell'annuncio. Soprattutto se parliamo di operazioni condotte da Israele direttamente contro l'Iran. Parliamoci chiaro, per risolvere il problema iraniano, data la distanza, la consistenza dell'arsenale delle capacità nucleari iraniane, le capacità militari convenzionali iraniane, Israele avrebbe un solo sistema, ovvero sia un attacco nucleare preventivo condotto con i suoi missili, eventualmente con gli aerei. Siccome non mi sembra una cosa molto fattibile, almeno politicamente, tecnicamente sì, le altre opzioni tecniche le trovo abbastanza risibili, nel senso che non avrebbero l'efficacia risolutiva, quindi al massimo riporterebbero un po' indietro le lancette del programma nucleare militare iraniano. Cioè tu dici, Andrea, in fin dei conti un attacco che l'Israele dovrebbe portare dovrebbe essere di tale efficacia e portata da tagliare definitivamente le gambe alle aspirazioni nucleari iraniane, e in questo momento questo attacco di questa portata non è ipotizzabile. Se non utilizzando, cioè usando la stessa arma degli iraniani, che non dimentichiamocelo, Israele ha circa dalle 200 alle 400 testate nucleari e i missili per colpire l'Iran. Perciò, volendo, questa sarebbe la soluzione militarmente più efficace, perché l'arsenale e, diciamo, tutte le attività che conducono gli iraniani sono disperse su un territorio immenso. Qui non parliamo di andare a fare un'operazione come in Iraq. Vi ricordate il reattore nucleare di Osirak? Già quello fu un capolavoro, ma era un obiettivo in un paese più vicino e più raggiungibile. L'Iran è tutta un'altra cosa. Non hanno neanche fisicamente gli aerei, i missili per fare un'operazione completa. Possono dargli una gran mazzata, e questo siamo d'accordo, ma non è il decapitare il serpente, il cobra iraniano. Ecco, fra l'altro poi quando vi sono questi annunci abbondano le speculazioni degli analisti anche sulle possibili perdite, come si condurrà questo attacco, eccetera. E sempre il Corriere, a firma di Francesco Battistini, riporta, avrebbe sentito gli ufficiali israeliani. Da un lato, dice Battistini, la preoccupazione degli ufficiali israeliani è il non appoggio degli Stati Uniti, e questo, come dire, su questo non ci piove. E poi dice, le perdite andrebbero ben oltre i 500 morti preventivati da Barak. E c'è un problema anche di, come dire, di costo-opportunità in una strategia come questa, in un'opzione come questa? Ma guardate, le questioni, cioè quando stiamo parlando di sopravvivenza del paese, nel senso che uno dice io temo domani mattina che l'Iran mi attacchi con un'atomica, diciamo che il discorso sui le perdite i civili collaterali, quelli che si chiamano collaterali non sono più collaterali, perché quando si parla di guerra nucleare non è certo uno scenario in cui vai a contare le vittime civili a decine o a centinaia, si cambia proprio ordine di grandezza, è proprio l'Armageddon. Però come diavolo si può pensare che Israele, ma bisogna anche guardare un'occhiata alle cartine geografiche, calcolare le distanze, i tempi, i rifornimenti, cioè ammettiamo pure che li lasciano passare tutti, Giordania, l'Arabia Saudita, Emirati, lasciano passare tutte queste valanghe di aeroplani israeliani, poi questi si riforniscono naturalmente, ritornano indietro, magari atterrano, fanno fuori le difese iraniane come se fosse burro, certo, tutto uno scenario che va bene secondo me nei fantathriller alla Tom Clancy, ma non nella realtà. Guardate, i piani reali sono quelli che fa il COM statunitense, li fanno e li aggiornano continuamente, ma che Israele da un'altra parte del mondo, del Mediterraneo, parte e se ne va nel Golfo e distrugge il potenziale nucleare e missilistico, perché ovviamente vorrei mica lasciargli le basi missilistiche da dove verrebbero lanciati i missili contro Israele, devi far fuori anche quelli. Poi per entrare come fai? Devi aprirti la strada in mezzo alla difesa aerea iraniana e allora bisogna scardinare anche quella. Certo, uno scenario meraviglioso se dovessimo fare un film, ma per fortuna penso proprio che il film non lo vedremo, a meno che non lo facciano altri attori. Grazie, allora Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa, buona giornata, buon lavoro, grazie come sempre per il tuo commento puntuale. Arrivederci. Ora una piccola pausa, poi tra qualche minuto di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E sempre questa settimana le vicende siriane hanno occupato le prime pagine molto spesso dei giornali internazionali. Noi ci siamo chiesti quanto un paese assai vicino come l'Iraq, che esce da decenni di tormentate vicende, possa essere in qualche modo un esempio di quello che sarà il futuro siriano. Iraqi security forces were on high alert for the pilgrimage. But they couldn't stop the biggest wave of attacks in months. Insurgents in Iraq killed at least 46 people today in a wave of attacks aimed at Shiite pilgrims and police. Well, Nick, these were a series of obviously coordinated bombings, as you mentioned, one of the deadliest days in months, sparking fears again that with U.S. forces no longer in the country. Come l'Iraq, l'Afghanistan come l'Iraq, questo spettro agitato da tecnici, analisti, giornalisti è negli ultimi mesi un costante riferimento al paese dei due fiumi. Dopo l'operazione Iraqi Freedom, dopo le elezioni, il ritiro dei militari statunitensi, l'Iraq è ancora lì a ricordarci che la pacificazione sulla carta è facile e poi invece quella sul terreno è molto molto più difficile. Scontri tra sunniti e sciiti, gli appetiti petroliferi nel paese, le aspirazioni di potere, bande armate, i gruppi qaedisti. Questo è il passato del paese dei due fiumi, ma che paese è oggi l'Iraq? E soprattutto quanto ci aiuta a capire quell'altro paese di cui parlavo prima, appunto la Siria? È una prima fotografia, ce la facciamo scattare dall'ambasciatore italiano a Baghdad, che è Gerardo Carante. Ambasciatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tratteggiare la fotografia appunto che le chiedevo, ascoltiamo insieme una scheda che ripercorre gli ultimi avvenimenti in Iraq dopo il ritiro statunitense. Nel dicembre 2011 gli Stati Uniti completano il previsto piano di ritiro dall'Iraq. Il governo di unità nazionale attraversa un periodo di stabilità. Viene emesso un mandato di arresto per il vicepresidente sunnita Tareq al-Hashemi. Il gruppo sunnita protesta boicottando le audizioni parlamentari. L'anno 2012 si apre con un bombardamento diretto alla comunità sciita che uccide 200 persone. In marzo la Lega Araba si riunisce a Baghdad. Si tratta del primo summit di portata internazionale dopo la caduta di Saddam Hussein. Prima del vertice, una serie di attentati miete decine di vittime. In aprile si interrompono le esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno. In maggio comincia il processo che vede imputato il vicepresidente al-Hashemi, fuggito e accusato di aver guidato squadroni della morte contro ufficiali sciiti. Il mese successivo, più di 160 persone rimangono uccise in attacchi diretti alla comunità sciita. Si teme sia l'inizio di un nuovo conflitto tra fazioni. In luglio, un'ondata di attentati e sparatorie uccide 113 persone in un solo giorno. E se i numeri, detti così, freddi, nudi e crudi, sono poco rassicuranti, ci soccorrerà l'ambasciatore nel tratteggiare meglio e meglio i chiaroscuri dell'Iraq. Ambasciatore, che paese è oggi l'Iraq? Innanzitutto diciamo che è un paese ricchissimo, un paese che oggi esporta più dell'Iran, un paese che può arrivare a produrre entro la fine del decennio tanto petrolio quanto l'Arabia Saudita. Un paese importante per l'Italia, dove le nostre imprese stanno lavorando proprio nel settore energetico, è un paese praticamente diviso in tre dal punto di vista della sicurezza, con un nord, regione curda, assolutamente sicuro e in pieno boom economico, un sud, la regione prettamente sciita, in inizio di boom economico dopo la partenza degli americani, con una grande produzione di petrolio e di materie prime, e un centro in cui le popolazioni si mischiano, curdi, sciiti, sunniti, cui fa parte Baghdad, dove il terrorismo la fa ancora da padrone. Ecco, ambasciatore, lei è di base a Baghdad, appunto la capitale, la principale città del paese. Com'è la vita quotidiana? Quanta vitalità può esistere in una zona che lei, insomma, faceva riferimento e ancora nella morsa degli attacchi? Guardi, Baghdad è una città di 8 milioni di abitanti dove non c'è nessun tipico prodotto del consumismo, non ci sono cinema, non ci sono teatri, non c'è centri commerciali, supermarket, centri di divertimento e così via, dove c'è pochissima elettricità e la gente è costretta a comprare o munirsi di generatori per avere qualche ora di elettricità al giorno. È una città dove nessun privato vuole investire perché appunto i terroristi sono tuttora attivi, nonostante si dica che molti di essi siano andati in Siria a instigare la già difficile situazione di sicurezza di quel paese. Ecco, dal suo punto di vista, che è un osservatore privilegiato in quanto può osservare anche appunto imprenditori, businessmen, anche italiani, c'è l'ENI, c'è Saipem, c'è Fincantieri, che cosa può eliminare del tutto i rischi della sicurezza al centro, Baghdad, e convincere gli investitori stranieri a investire in un paese che al momento è così pericoloso? Bene, i grandi investitori stranieri già investono perché le grandi imprese possono munirsi di quella sicurezza, pagandola lautamente naturalmente, che gli permette comunque di agire. I piccoli, medi imprenditori invece nella zona centrale del paese ancora non operano. Quello che potrebbe dare un notevole contributo al ridimensionamento del terrorismo e sarebbe la vera e propria creazione di uno Stato federale, così come era previsto dalla Costituzione. Attualmente gli sciiti hanno tutto il potere, tranne la regione curda che praticamente è completamente autonoma. Gli sunniti, che sono un 20-25% della popolazione, non hanno potere né ricchezze, in quanto poi le materie prime sono soprattutto nelle zone sciite, e dunque si vede questa forma di reazione da parte di minoranze armate sunnite nei confronti del potere sciita. Il potere sciita che però non demorde, non gli dà tramite per esempio la creazione di regioni autonome del tipo di quella curda, la possibilità ai sunniti di potersi rialzare, di poter avere un interesse a vivere in questo paese. Grazie allora per questa fotografia all'ambasciatore italiano a Baghdad, Gerardo Carante. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Tra 349-238-6666, gentili ascoltatori, la mail nessunluogo@radio24.it, la pagina Facebook è nessunluogolontano-radio24, lì vi invito a postare commenti o domande. Anche alla prossima ospite, oggi si parla di Iraq, perché? Perché il paese dei due fiumi è spesso additato come esempio, anzi agitato come spettro di come potrebbero andare a finire altre situazioni in corso. Una è quella afghana, e lì soprattutto si fanno riferimenti ai fallimenti militari delle forze internazionali, e l'altra è la Siria, che è tutta in divenire, e stiamo cercando di capire quanto questo, chiamiamolo modello Iraq, possa poi aderire a quello che sta accadendo in Siria. Quindi do il mio buongiorno a Marcella Emiliani, esperta di Medio Oriente. Professoressa Emiliani, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da quelli che sono i paralleli che si potrebbero fare tra la situazione irachena e quella siriana. Esistono componenti sunnite, sciite e curde in entrambi i paesi. Esistono elementi, lo ricordava anche l'ambasciatore, qaedisti nella parte centrale dell'Iraq, e poi giustamente l'ambasciatore suggeriva che c'è stata una migrazione, in parte insomma è stato verificato anche sul campo. Ci sono elementi d'Al-Qaeda anche in Siria. Questi due mi sembrano i due principali punti di contatto, ma mi smentisca pure. Non è che la voglio smentire a tutti i costi. Il problema fondamentale è che in Iraq c'è il petrolio e in Siria no. Quindi le componenti hanno diversi motivi di conflitto. Cioè, curdi e sciiti in Iraq tendono a mantenere il più possibile il controllo sui loro pozzi di petrolio. I sunniti combattono per entrare, diciamo così, nel convito di quelli che usufruiscono dei proventi petroliferi. Secondariamente, perché i pozzi di petrolio sono solo in Kurdistan e nella terra degli sciiti a sud, sì. In Siria sì, c'è un pochino di petrolio, ma come dico sempre io, non basta neanche riempire uno zippo, non è una cosa importante. Quindi diciamo che il motivo economico è un motivo forte in Iraq, lo è molto meno in Siria. Va detto comunque che per interventi esterni o non interventi esterni, nel caso della Siria, per una politica portata avanti con determinazione da Bashar al-Assad, nel momento in cui sono cominciati gli scontri, le varie comunità si sono divise come se non avessero mai fatto parte di una stessa nazione, dando vita a quella che viene chiamata una violenza etnico-settaria, e che è difficile da sradicare perché ognuno si richiude nella propria comunità e guarda solo all'interesse immediato. Vediamo ad esempio cosa sta succedendo in Siria. È colpa del regime di Bashar al-Assad se i curdi, che all'inizio avevano mantenuto una posizione attendista, o peggio ancora gli alawiti, che fanno parte della stessa comunità del presidente, non fanno più parte dell'opposizione, o perlomeno fanno un loro gioco, perché Bashar li ha presentati come dei fiancheggiatori del regime, ha bombardato di propaganda. Stessa sorte è toccata ai cristiani. Fin tanto che la Siria si propagandava nel resto del Medio Oriente come l'unico paese veramente laico, sì, e si vantava di proteggere i siriani, nessuno ha mai pensato che i cristiani fossero affiancati a una dittatura. Nel momento in cui è cominciata la primavera araba in Siria, tutti hanno cominciato a identificarli col regime, anche se loro col regime non vogliono essere identificati. Quindi diciamo che in queste fasi di transizioni il peggio emerge, soprattutto se è fomentato, ripeto, nel caso della Siria dallo stesso regime. Nel caso dell'Iraq diciamo che l'errore di dividere in questa maniera drammatica le comunità è stata anche favorita da certe politiche americane e soprattutto da certe politiche iraniane, perché non scordiamoci che nella conflittualità irachena, come rischia di diventare in Siria, l'Iran sta giocando un ruolo strategico molto importante. Ora una piccola pausa, poi tra qualche minuto di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E sempre nella settimana appena trascorsa ci siamo occupati anche del Maghreb. Siamo andati in Tunisia e ci siamo occupati di questa protesta delle donne tunisine contro una proposta di riforma di un articolo della Costituzione sulla parità dei sessi, e quindi andiamo a Tunisi. Les tunisiennes sont appelées à manifester ce lundi à Tunis pour exiger le retrait d'un projet d'article de la Constitution. L'article 27 stipule que l'État assure la protection des droits de la femme, de ses acquis, sous le principe donc de complémentarité avec l'homme. Cambiamo proprio scenario perché andiamo a Tunisi dove la primavera araba, che proprio da lì era partita, rischia di diventare un autunno, o almeno secondo le spinte, le forze più liberali, e c'è una partita a scacchi che si sta giocando fra il partito islamista Ennahda, che ha vinto le recenti elezioni, e fra un forte movimento liberale e femminista. E questa partita da scacchi si gioca su due parole: complementarietà e uguaglianza. Complementarité, dicevano, contre égalité, e si parla di complementarietà o uguaglianza dei sessi. Un progetto di articolo della futura Costituzione dice che la donna sarebbe complementare all'uomo e appunto e quindi non più uguale, e questo sta scatenando, come immaginate, anche proteste e manifestazioni che vi sono già state a Tunisi nei giorni scorsi. Ce n'è una in via di organizzazione proprio quest'oggi, cerchiamo di capirne meglio con Karima Mual, collaboratrice del Sole 24 Ore. Karima, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, questa estate appunto si presenta molto calda per le donne in Tunisia, visto che appunto si sta ridisegnando il futuro della Tunisia con la nuova Costituzione. Purtroppo ci sono segnali non positivi per le donne. Purtroppo questa primavera araba si sta dimostrando una primavera non tanto, molto buia, ecco. Sì. In particolare si è discusso su questo articolo, l'articolo 28 della nuova Costituzione, nel quale si mette in discussione un principio fondamentale, che è quello dell'uguaglianza tra uomo e donna. Si pensava che questo, diciamo, questo ostacolo fosse superato già 56 anni fa, appunto con Bourguiba, quando promulgò lo statuto personale, che ne fece orgoglio di questo paese, e fu preso come esempio anche da altri paesi del Maghreb come il Marocco e l'Algeria, perché proprio questo statuto personale della donna gli diede molti diritti, tra i primi appunto l'uguaglianza tra la donna e l'uomo, la possibilità di divorziare, la poligamia fu interdetta. Sì. Oggi invece nel 2012 c'è un passo indietro, molto molto pericoloso, ed è per questo che la manifestazione di oggi è importante, un passo pericoloso, perché con questo cavillo, diciamo, costituzionale, in realtà si può scavalcare benissimo questo codice personale della donna, e perché no, si possono anche aprire porte non felici per la Tunisia. Ecco, perché ricordiamo appunto che quello che appunto che stiamo definendo come un cavillo o un diverbio linguistico, in realtà nasconde, siccome stiamo parlando di legge costituzionale, diventa poi fonte primaria del diritto, ed è chiaro che va esatto. A cascata su anche quello che era, giustamente ricordavi, un codice di famiglia all'avanguardia nel mondo arabo e in tutto il Maghreb. Anche i movimenti femministi e più liberali si ispiravano a questa punta di diamante, sì. No? Ante litteram, se vogliamo, il 56, insomma, in Tunisia, e quindi queste due parole, insomma, rischiano di mandare a monte 40 anni, anzi di più, di battaglie per le donne. Sì, 56 anni, giustamente. Complementare l'uomo in francese, quindi loro fanno, c'è anche di più, insomma, la parola in arabo ha un significato che annessa l'uomo, di fatto così la donna smette di esistere come individuo a sé. anche se i promotori, quindi il partito islamista, cerca di mediare giocando con le parole, la Nabidi, il membro del partito islamista, si è affrettata a precisare che complementarità non significa disuguaglianza, ma c'è uno scambio e un partenariato. Allora c'è chi si chiede, allora come mai non c'è un articolo nella Costituzione che dica che anche l'uomo è complementare alla donna? Quindi diciamo che insomma si capisce perché le associazioni e la sinistra tunisina siano sul piede di guerra, proprio perché in realtà diciamo questo articolo potrebbe in realtà aprire, non so, insomma, si scavalca in pieno il codice e che tutela l'uguaglianza, e questo e poi non sarà altro che uno spiraglio, il recupero della tradizione sharaitica, quindi quell'interpretazione anche rigida della legge coranica che esalta la visione tradizionale dell'uomo alla donna. E poi questo secondo me sarà solo il primo input che potrebbe aprire una strada buia nel futuro della Tunisia. Ecco, per quello che si è così preoccupati. Ecco, di certo la sinistra Etakatol non sta a guardare. Una delle sue deputate più in vista, Selma Mabrouk, ha anche lanciato una petizione in settimana via internet, poi posteremo su Facebook anche il link per quella petizione. Si è detta scandalizzata per questo progetto appunto di legge, e chiaramente come dire, molte anime liberali non fanno che puntare il dito su Ennahda dicendo: vedete, ve l'avevamo detto, la vittoria degli islamisti, ecco che cosa potrebbe portare. Buona parte del mondo liberale si sta schierando con questa iniziativa, ci sarà appunto oggi una manifestazione a Tunisi, ve ne daremo conto poi nella trasmissione. Anche a Parigi ci sarà la manifestazione. Ecco, perché quindi poi non va dimenticata la diaspora tunisina, insomma c'è una comunità tunisina fortissima. Intanto al 349-238-6666 Carmen, che ci scrive: in preda alla totale disillusione, ho sempre pensato perché per quanto riguarda le donne fosse un autunno arabo altro che primavera araba. Però non tutti si schierano a favore di questa proposta di legge. Anche c'è un uomo che viene ricordato da Frans Venkatre, si chiama Ibrahim Kassas, è un deputato, un uomo politico che fra l'altro, perché era poi tutta nata un'altra incredibile querelle su quella medaglia d'argento di un'atleta tunisina sui 3000 metri proprio alle recenti Olimpiadi di Londra. Aveva corso con la divisa classica delle atlete, quindi come dire ombelico scoperto, e da lì insomma Ennahda si era infuriato, no, additando insomma questi slip che erano stati portati, no, come esempio di ovviamente di vituperio, perché ovviamente non sarebbe possibile. Questo uomo politico Ibrahim Kassas non l'ha mandato certo a dire, dice: gli slip di Habiba Ghribi, che è questa atleta, non hanno fatto altro che onorarci. Sono simboli, sì, Karima, però alla fine però insomma alla fine stiamo parlando di cose. Purtroppo come dicono anche molti, diciamo, opinionisti tunisini, si sta rifacendo la Tunisia, invece di discutere sui diritti dell'uomo e sui diritti dei cittadini, si sta diciamo tornando indietro a discussioni che si pensava lasciate indietro, discussioni che dicono quasi primitive, perché è davvero assurdo che di nuovo si riprendano discorsi sulla donna, quanto valga, se sia meno dell'uomo o altro. Quindi purtroppo diciamo che la preoccupazione rimane molto alta. Io avevo sentito anche dopo la primavera araba che molte tunisine, anche in Italia, che erano preoccupati dall'ascesa del partito islamista, perché già si aspettavano che le discussioni sul tavolo fossero poi alla fine diventassero di questo tipo, ecco. Questi i rischi, ne seguiremo nei prossimi giorni come andranno le manifestazioni di protesta, e se questo, ripetiamo, è per adesso un progetto di articolo della futura Costituzione in cui si usano termini come complementarietà invece che uguaglianza, e questo sta scatenando il dibattito, seguiremo nei prossimi giorni come andrà a finire. Grazie intanto a Karima Mual per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie. E sempre sul tema della parità dei sessi in Tunisia, abbiamo chiesto un'opinione a Salma Mabrouk, che è una deputata del partito Ettakatol, partito di sinistra appunto in Tunisia, e abbiamo chiesto un bilancio della grande manifestazione che si è tenuta lunedì sera non solo a Tunisi ma in varie città del paese. C'était très bien dans le sens que il y avait beaucoup beaucoup de monde. La manifestazione è andata molto bene, c'era tanta gente, circa 10.000 persone di ogni età, uomini e donne di estrazione diversa, c'erano deputati, partiti politici. È stata una bella manifestazione pacifica che si è svolta molto bene. Quello che ci aspettiamo è che i deputati che hanno proposto questo articolo assai controverso e pericoloso per i diritti delle donne presentino la revisione della loro proposta, perché nel momento in cui si parla dei diritti delle donne all'Assemblea nazionale si abbia una proposta sulla quale tutti sono d'accordo e che non divida la popolazione tunisina. L'articolo, così com'è, è chiaramente rifiutato da una parte di tunisine e tunisini e sarebbe un peccato arrivare all'Assemblea con una scelta come questa, cioè con qualcosa che può dividere la società del nostro paese. Quello che è molto rassicurante rispetto a questo articolo è che sia a livello dei deputati, della società civile, della popolazione, sono anche gli uomini a essere preoccupati e spesso anche più delle donne. Sono stata di recente a un convegno ad Hammamet dove sono stati gli uomini a parlare e a rifiutare questo articolo perché i diritti delle donne tunisine sono diritti della società tunisina. Non è solo la donna che ne beneficia, ma tutta la società. Il demande più che ce qu'on avait avant. Questo era il primo commento di Salma Mabrouk, deputata attivista che ieri era in piazza assieme appunto alle altre migliaia di cittadini e cittadine tunisine che tentavano in qualche modo di far sentire la loro voce e arginare questa proposta di Ennahda che tanto preoccupa gli ambienti più liberali. Sempre alla Mabrouk abbiamo chiesto come definirebbe questa situazione, questo strano paradosso storico per cui proprio dal paese in cui la primavera araba ha iniziato a lanciare i suoi strali contro i regimi, da lì si è levato uno dei primi gridi appunto di libertà e proprio qui invece insomma questo grido sembra essere soffocato. C'est un paradoxe, je dirais. Questa situazione è un paradosso, direi, e ciò che ancora più stupisce è che Ennahda aveva siglato un patto nel 2006 al tempo di Ben Ali, quando era l'opposizione, un accordo nel quale i signatari dell'opposizione appunto si impegnavano su vari temi, in particolare le libertà e i diritti delle donne. C'era quindi un impegno politico su vari temi, stupisce quindi che a distanza di anni militanti e deputanti di Ennahda cambino idea su questo punto, che è uno dei principali diritti acquisiti della Tunisia. Ciò che propone questo articolo non è certo un obiettivo della rivoluzione della primavera araba, perché la primavera araba chiedeva più libertà e uguaglianza e non certo la revisione dei diritti di una parte della cittadinanza. È un paradosso e siamo molto turbati. Le reazioni di Ennahda non sono positive e al momento non credo che metteranno in discussione questo articolo. Resto comunque ottimista e aspetterò ancora qualche giorno per capire che cosa accadrà. Je reste optimiste, on attend encore quelques jours pour voir un peu comment ça va avancer. L'analisi, la radiografia della politica di Ennahda, secondo una deputata che sta all'opposizione e che lotta per affinché questo articolo 28 venga poi rivisto, questo strano termine che viene introdotto, complementarietà, una semplice parola che invece potrebbe portare a conseguenze giuridiche e non solo, anche sulla società tunisina enormi, perché viene messa in discussione quella che era un diritto costituzionalmente accettato della parità fra uomo e donna. Quanto sta cambiando la politica di Ennahda? E poi ancora un altro punto che Ennahda vuole andare a toccare, questo articolo 3, ascoltiamo ancora Salma Mabrouk. La politica di Ennahda è cambiata nell'ultimo anno e mezzo, il partito sta cambiando, dopo la rivoluzione era diventato legale, poi ha conseguito la vittoria elettorale con più del 37% dei voti ed io ero ottimista fino a poche settimane fa. Ma ora vedo che dopo queste proposte sulla Costituzione il cambiamento interno al partito non è completo, bisogna che rivedano il loro modello. L'opinione pubblica rifiuta l'articolo sulla complementarietà delle donne rispetto agli uomini, ma ci sono altri articoli inammissibili. Ad esempio la proposta sull'articolo 3, che parla di criminalizzazione delle offese alla religione. C'è ancora molto da fare perché Ennahda rispetti lo stato civile, le libertà e diventi un partito come gli altri. Nessun luogo lontano torna tra pochi minuti. Una piccola pausa. Restate con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora un buon sabato, gentili ascoltatori. State ascoltando il meglio della settimana di Nessun Luogo è Lontano. E adesso andiamo dall'altra parte del mondo. Ci siamo andati giovedì, siamo andati in Australia, dove il Parlamento è alle prese con il problema dell'immigrazione irregolare. Abbiamo parlato anche di traffico di esseri umani. Ascoltiamo insieme un estratto di quella puntata. The time for politics is over. The time for action is here. It's time to get this legislation amended. And the government is prepared to make any arrangements necessary in order to. E la voce che sentite è quella di Julia Gillard, premier australiano. C'è un in corso, un forte, un accesissimo dibattito parlamentare in Australia. Australia che deve fronteggiare il problema dell'immigrazione irregolare, un problema via via crescente. Negli ultimi mesi sono stati 150 gli sbarchi, sono migliaia di persone, tra i quali molti richiedenti asilo. E allora abbiamo cercato di capirne di più, l'abbiamo fatto ascoltando la voce di Joe Kelly, giornalista del The Australian. It's not a new debate. It's been a debate that's gone on for the best part of a year. For the best part of a year there's been. Non è un dibattito nuovo. È una questione di cui si discute da anni e che coinvolge da tempo i due maggiori partiti politici australiani. Il numero di persone che sbarcano nel paese è arrivato a 1500 al mese. Dato che il programma australiano per i rifugiati è molto solido, gli australiani vogliono vedere azioni concrete. Ed è questa la questione principale che sta occupando il dibattito parlamentare in questi giorni. All'inizio della settimana, proprio per sbloccare lo stallo parlamentare sulle misure per scoraggiare gli arrivi irregolari via mare, un gruppo di esperti nominato dal governo laburista australiano e guidato dall'ex comandante delle forze armate, Angus Houston, ha raccomandato di riaprire al più presto i centri di detenzione per richiedenti asilo fuori d'Australia, nel piccolo stato di Nauru e in Papua Nuova Guinea. In Parlamento si sta cercando di arrivare a un accordo tra governo e opposizione proprio su questa risoluzione. Oggi, sulla prima pagina del The Australian, abbiamo un pezzo proprio su questo tema. Il governo della Papua Nuova Guinea sta esprimendo la sua preoccupazione riguardo a questo problema e chiede al governo australiano che siano prima finalizzati accordi formali con tributi finanziari. Ovviamente tutto ciò graverà sulle casse dello Stato. La situazione è ancora piuttosto mutevole, i negoziati sono iniziati solo di recente. Eh sì, perché i temi sul tappeto sono tanti e sono caldi. Innanzitutto la questione che si esternalizza extraterritorialmente il diritto dei richiedenti asilo, nel senso che i centri di detenzione dovranno essere riaperti nello stato di Nauru e in Papua Nuova Guinea, cioè fuori appunto dall'Australia, con anche degli accordi economici ovviamente che si dovranno concretizzare fra questi tre paesi, perché è chiaro che l'accoglienza di questi richiedenti asilo ha bisogno anche di adeguate risorse finanziarie. E come dire, fa forse strabuzzare gli occhi pensare che comunque venga esternalizzato, no? In paesi, fra l'altro, se avete modo, andate su Google Maps, gentili ascoltatori, perché scoprirete che lo stato di Nauru è un'isoletta piccolissima a parecchie centinaia di chilometri dall'Australia, quindi questo è uno dei punti, diciamo, più controversi di questa operazione. Operazione che era iniziata già nel 2008, poi era stata bloccata dal governo laburista, ma ora sta tornando in auge. La Gillard, l'avete sentito a inizio trasmissione, ha detto è finito il tempo della politica, deve iniziare il tempo dell'azione. E noi abbiamo appunto chiacchierato con questo giornalista australiano, Joe Kelly, reporter del The Australian, e a Joe Kelly abbiamo chiesto se ha la sensazione che l'Australia si stia in qualche modo chiudendo a riccio rispetto al problema dell'immigrazione. No, I don't think that's right. I don't think that's a correct assessment of the situation. No, non penso che l'Australia si stia chiudendo come una fortezza, come molti commentatori dicono dell'Europa. La quantità di migranti che entrano nel paese è una delle più alte al mondo dopo Canada e Stati Uniti. Sostanzialmente quello che il Parlamento australiano sta tentando di fare è creare un sistema più equo che convogli le persone che arrivano via mare verso i canali appropriati per richiedere asilo in Australia. Questo è uno degli obiettivi del rapporto di questa settimana, che ha stabilito inoltre l'aumento del programma umanitario da 13.000 a 20.000 posti l'anno, fino a 27.000 nei prossimi 5 anni. Quello che l'Australia sta cercando di fare, quindi, è mettere a punto un sistema più giusto e più equo che riesca ad accogliere più rifugiati che in questo momento provengono soprattutto dallo Sri Lanka per via della guerra civile e dall'Afghanistan. Get quite a lot from that area. E infine, come amo ricordare spesso quando parliamo di immigrazione, non va sottovalutata la leva politica che l'immigrazione è in tutte le situazioni. Lo abbiamo visto in Europa, l'abbiamo visto al tempo degli accordi italo-libici, e l'Australia da questo punto di vista non fa eccezione. Certainly there will be an outcome. Certainly it does break that parliamentary deadlock. Certamente questa soluzione avrà delle conseguenze per Julia Gillard, da un certo punto di vista positive, perché si sta rompendo l'impasse parlamentare. Dall'altra parte, però, potrebbe essere un segno di debolezza per il primo ministro, perché la decisione di riaprire i centri di detenzione fuori dall'Australia è una proposta che l'opposizione rivendica da anni. Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze sul suo governo. Da una parte si tratta di un'azione concreta per risolvere la questione dei migranti, ma dall'altra, come ho detto, potrebbe essere un colpo ben assestato da parte dell'opposizione. Queste sono le due interpretazioni principali. E questo è il complesso tema e dibattito politico che si sta svolgendo in Australia, ve ne daremo conto nei prossimi giorni, ma adesso voglio voltare pagina e raccontarvi un'altra storia che in qualche modo è legata, perché il tema dell'immigrazione ha a che fare con le volontà degli individui, cioè si è liberi o meno di passare da un paese all'altro, quanto si è forzati e soprattutto quanto si è liberi una volta che si arriva nel paese di destinazione. Ascoltate questa storia. Questa è la storia di Ramona, che aveva 15 anni, veniva da Craiova, che è un piccolo villaggio della Romania al confine con la Serbia. Un giorno a Ramona le viene proposto di andare in Italia. È facile, si prende un pullman, basta il passaporto, si parte da Bucarest e si arriva tranquillamente a Venezia. La proposta era golosa, era quella di lavorare in un ristorante lungo la riviera Adriatica come cameriera. E la proposta le arriva dal fidanzato. Il fidanzato più grande di lei di alcuni anni, si chiama Adrian, i due sono innamorati, quindi, come dire, la proposta ha tutti i crismi per essere accettata. E così Ramona e Adrian partono. E poi arrivano in un piccolo centro della costa adriatica. Lì però ancora non c'è il lavoro, non c'è ancora l'albergo, c'è un appartamento invece, un appartamento con altre ragazze rumene, come lei. Però Adrian e altri amici propongono a queste ragazze alcuni giorni di bella vita. Belle cene, bei vestiti. E poi però a un certo punto si spalanca l'abisso, perché come si fa a mantenere un tenore di vita come questo? E allora Adrian mostra il suo vero volto, e quella che doveva essere una proposta irrinunciabile diventa l'inizio di un incubo, perché per mantenere quei vestiti e quella bella vita a Ramona viene proposto di finire sulla strada e di prostituirsi. Allora do il mio buongiorno a Vincenzo Castelli, che è il presidente di On the Road Onlus. Questa storia è una delle tante che voi avete vissuto in prima persona, perché lavorate proprio su queste tematiche, lavorate sulla tratta di esseri umani, lavorate su ragazze, ma non solo, come Ramona, che in vista di un futuro migliore, di una promessa che poi si rivela assolutamente infondata, arrivano in Italia e poi appunto si trovano dentro un incubo, possiamo definirlo così. Vincenzo Castelli, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Allora, On the Road Onlus, da quanti anni lavora e dove lavora? On the Road è un'associazione senza scopo di lucro che lavora sulla costa adriatica, nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise in maniera specifica, ed è nata nel 1994 giuridicamente, quindi lavora ormai da 20 anni, possiamo dire. E questa storia fa parte del nostro catalogo, patrimonio, dei nostri vissuti, delle nostre angosce o anche soluzioni, perché sono state anche accompagnate, io credo, in questi 20 anni da noi, credo attorno veramente alle 1.800-2.000 ragazze, più o meno 100 all'anno passano da noi, ragazze nigeriane, rumene, in questo periodo sono passate negli anni 90, inizio del 2000, molte ragazze albanesi, moldave, delle ex URSS, passano travestiti, transessuali, persone anche qui sfruttate dal punto di vista anche sessuale. In questi ultimi anni stanno passando, abbiamo anche una casa d'accoglienza per sfruttamento lavorativo, quindi uomini in particolare dell'area asiatica, Bangladesh, India o dell'area del Maghreb, Tunisia, Egitto, eccetera. Sì, quello della tratta di esseri umani è un fenomeno mondiale. Dopo col prossimo ospite cercheremo di inquadrarlo meglio giuridicamente e anche di dare le giuste proporzioni. La storia che abbiamo raccontato, fatti salvi i nomi, di pura invenzione per tutelare ovviamente la privacy, sono storie come ce ne sono state tante e sicuramente gli ascoltatori ricorderanno un'altra recente storia di cronaca che è uscita ampiamente sui giornali italiani, di quella ragazzina macedone venduta a Venezia per 3.000 euro. Oggi stiamo cercando di tratteggiare un fenomeno che, secondo le stime dell'ONU, per il solo lavoro forzato, quindi migrazione e poi lavoro forzato di questi migranti che vengono ridotti in schiavitù nel mondo, sfiora i 32 miliardi di dollari. Quindi do il mio benvenuto a Fabrizio Sarrica dell'Ufficio Antidroga e Crimine dell'ONU. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Giampaolo, buongiorno. Allora, innanzitutto sarà difficile, come dire, tratteggiare l'intero fenomeno a livello mondiale, però cercheremo di concentrarci su alcuni aspetti che ci aiutano a comprenderlo meglio e soprattutto su alcuni luoghi. Esistono aree del mondo, e le chiedo Sarrica di essere sintetico in questo, in cui si concentra il traffico di esseri umani, luoghi di elezione in cui i trafficanti riescono a lavorare meglio di altri posti? Beh, chiaramente insomma è difficile rispondere. La tratta, come ha detto lei prima, è un fenomeno che è presente dappertutto nel mondo. Praticamente non c'è nessun paese al mondo che si può dichiarare estraneo, pochi paesi al mondo dove si possa dire che non esista la tratta, e ha diverse caratteristiche, diciamo, geografiche. A livello internazionale ogni regione ha le sue caratteristiche, per esempio in Europa appunto sì, la maggior parte delle vittime sono europee, sì, paesi dei Balcani o dell'Africa occidentale, quindi nigeriane. E con questo è tutto, io ringrazio Mirella Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione, Robby Scaltriti alla parte tecnica, ringrazio voi per aver ascoltato anche questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che torna con una nuova puntata lunedì, in diretta alle 13.15, la replica di quella del venerdì alle 6.30 e come sempre, come oggi, il meglio di ogni sabato alle 9. E vi ricordo che potete raggiungerci su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, intanto un buon weekend, un buon sabato, ci sentiamo lunedì, un saluto da Giampaolo Musumeci. We'll be right back.